Anche il giustino che è di sbocca, che devo scappare, che si anche qua. Se mi sta di giustino, non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno, Gio Maria. Non è più come prima, che prima spazzolavi, dato prima qua era pieno. Non c'è più nessuno. Gianmaria, buongiorno. Ciao, buongiorno. Anche la Patrizia mi aveva chiamato. Ma invece allora quando ho sceso il cane, vuol dire che l'apparecchio ce l'aveva acceso. Da pochi minuti fa, c'era circa 6 minuti fa mi ha chiamato. La vostra sola ha chiamato, tanto l'ho chiamato io e non mi ha risposto. Boh, aspetta che provo. Attenzione, Bacchiglio! Deve lasciarlo da Duduttu. Ecco, evidentemente non si è sentito, allora chiuso. Infatti. Io sono sceso giù con il cane, che lo scendo a quest'ora sempre. L'ho chiamato ma non mi ha risposto. Deve capire. E allora, cioè, per me ti racconti bene. Sai cosa ti racconto? Una domenica come te l'altra. Mangiare, mangiare, mangiare, senza potersi... Oh, vabbè, a questa mattina, forse che campagno è innaffiato alle 7 e lo torna qua. Ah, ti aggucichiccio. Potevi rimanere un altro po' giù, tanto c'era fresco fino alle 8. La presa da Aricchito sono stesso. Anche il giorno, siccome si è condominato la compagna mia, no? Così anche il giorno tutto, la fiorie e mi sono messo a innaffiare. E alle 7 sono arrivato qua. Vuol dire presto presto già è buono. Adesso è presto, ma poi si è arrivato il giorno perché il terreno è caldo, scusa l'acqua fresca e brucia le piante, capito? Perché bisogna innaffiare quando è freddo il terreno, capito? La mattina è freddo il terreno per cui puoi dare l'acqua. Sì. Già è così, sì, e purtroppo non si può fare nulla. Aspetta, arrivato mi sono già fatto, mi sono tolto a ricare, alle 9 me ne sono alzato di nuovo, puoi immaginare, ho fatto colazione ed eccoci qua. Più tra poco c'è il motore da magna. Grazie, ma non per il programma già. Ecco, cosa vuoi fare? Anzi, oggi è un po' ventilata, ci sta bene, non è come caldo affoso. Ah, gente che arrivi là, trandanda di gas, vuoi, dentro di ghida. Oh, arriva. Torna col caldo africano. Ci do a fuggio, brucchi. Andiamo bene, andiamo bene, questo è rinfrescare. A pensare a quei candarini di fuori in Brasile, mi sa che ci stanno gerabili e muove con il tuo gas africano. Vabbè, ci stanno i gusci, ne andano i gusci. Grazie, arrivederci, finisce il temporale e tutto, invece che stanno figliati di tutto. Certo, andiamo, via. A media di 40-41 gradi, 42, al centro della Sardegna. Campidano, non cazzo, ancora in sala, c'era tutta quella zona, e lì è toccato parecchio, è toccato veramente, e lì è toccato, già fatto, andiamo via. Sì, vedrà come ti bassa, se non ti bassa, peggio Baelli. Peggio Baelli, non Baelli, Baelli. Sì, sarà 3-4 giorni di caldo. Poi già c'è andata la ghida, ritorniamo attorno al fresco. Almeno si può riposare anche la notte, la notte si può dormire, ma più giornalmente. Allora, tocco di trattore con la sveglia. Allora, 3-4 ore accendo il suo ventilatore, dopo lo spengo e accendo la ventola. Cazzo, mi si rimane tutto, tutta la ora, tutte le notti così faccio ciò, non si può stare, a me non si può stare, non stare da morire, per cui ci manca l'aria, non si può stare a fare questa festa, non si può stare, grazie a te. Fai bene, tanto sennò Rudaro non si butta. Io c'ho un avvento, l'accio. Ecco, quello lì, tutta la notte, ama come ripresa. Poi che non mangiano, ne ha dato me ne vedo con cacca d'orori. Questa è meglio che la costruzione, perché anch'io me ne accorgo quando dopo tanto, dopo magari un'oretta, un'ora e mezzo, così comincia a sentire un po' freschetto e la gola comincia a risentirsi. Però dopo che io accendo la svezza, che è la mia, a posto della fatale faccio la svezza, mi parli da 70 centimetri, che lì la stessa base. E fa fresco, e c'ha tre velocità, la metà due. Fino a mattina quando me le alzo, c'è pazienza dopo. Però prima, quando mi corri, faccio il cominciato. Quando sotto prendo la camera, allora non sento e aspetto la testa, mi rimane sempre calda, che forse chiude però, Infatti l'unica cosa è così, rinfrescarsi così, tanto per comunque tu garori, che fai? Se devono garori e vabbè, ma già avrà passato tu canto, la torremo a stagione normale. Purtroppo miravamo se lo dovemmo bigliare e già verrà il fresco. Anche se so conosco il pedaggio di che l'avete mandata a mettere a parlare sulla comunità, sicuramente sopra come sembrano dopo i palienici, i mini palienici, la vostra fotonica e fada. Chissà. No, chissà che dentro di ghetta aumenta di 37-38 gradi. Su gas africano brutti. Ma 30 in casa si sa di te. E come quei giorni scorsi c'era questa fase africana. Già siamo affrontati, così tiriamo avanti così, dai. Infatti, già siamo attrezzati. 1, 2, 3 condizionatori, a volte ne accendo 2, a volte ne accendo 1. Io ne ho uno in cucina, uno in sala e uno in soggiorno. Grazie a tutti. Chiamarlo. Attenzione signor Bacchiglio, se sei all'ascolto. Andava va, Marco Marino. Attenzione Marino. Già ne preparendo il fuoco, tutte e due, va. Già ne preparendo, vabbè. Alle prossime. È così, bisogna fare così, bisogna fare, vabbè. Ma poi che voglio mangiare un cane.